hai fatto male. 5-10, c'è qualcuno in questo canale di morti? GQ canale di morti, c'è qualcuno sul 10? Ciao Tatali. Ciao. E cos'è questo rumore strano che c'è sto fondo? Mia moglie, il televisore, il gatto. No, non è da te, no. Era un segnale strano, faceva Ma c'è ancora? Sì, ma... Intanto a compare, Santiago 89. Mi nomi? Non l'ho sentito io, va. Forse perché c'ho lo squelch. 4, 5, 5, 4, 3, 4. Fare una portata spaziale, gatto. Un rumore strano. Può essere che sia propagazione o qualche stupido che sta mettendo la portata. Comunque bella questa, canale dei morti. A chi non è vero, non va mai nessuno, gatto. Molte volte spengo perché mi stanco di sentire di QRM. Ho messo lo squelch proprio, ma non ci miro QRM. Ma che se no mi fa che giù. Io ho telefonato a Gianni per tenere frequenza, vai da vedere. Come? Che ieri ho chiamato a Gianni per tenere frequenza, ma non so che devo telefonare, ma so per tenere frequenza. Avvirumi. Ma voi cazzo, quando mi dite che è un canale di molti, non è vero. Vabbè, non prima nessuno, per forza. Per quello che l'ho detto. Sono morti e non se ne sono accorti, Tony cazzo. Allora, di fantasma mi so. A volte loro ci penso che stanno usando in frequenza invece col pensiero soltanto. Ma baracchino manco la sentere. Aspetta, Tony, che mia moglie mi sta dicendo cosa. Eia, tu che te l'hai detto questa portantina, se continui così bruci tutto. C'è un rumore strano e poi sta uscendo anche il fumo. Poi se la portante dall'oltretomba non so fare mai. Meno mi, buttaci via tutto. Però se mi mandano dei video. Cazzo, con c'è, io sto parlando però. Si fa vedi così. Tony. Eia. E c'è mia moglie che stava interferendo. L'ho sentita, ciao Cocce. Dai. Ciao Tony. Tutto bene Cocce? Sì, tutto ok. Meglio così, dai. Cazzo, la ogni volta mi tocca telefonare a Rugup. E mi piace. A chi non vede disponibilità e va chi sa visita chi devo fare. Dimmi tu. A me l'hai data addirittura a gennaio, 15 gennaio. Sì, ma c'è urgente, perché ogni 10 giorni scade l'impegnativa. Fra 10 giorni, se non ci riesco, devo farmi fare un'altra impegnativa. No, la mia già vale sempre meno male. Quindi. È tutto un casino natalino. E poi non c'è più il Covid che verrà casino, che deve darsi, adesso è tutto tranquillo e ne stanno approfittando. Resta 2-3 mesi a fare una visita, ma va a faccina, cara. No, non ci sono medici, c'hanno poche disponibilità evidentemente, poi questa ha la priorità di praticamente vale 10 giorni, se entro 10 giorni non ti fanno la visita scade e ti ne devi far fare un'altra, ma che è una cosa urgente. Cazzo, non lo so qui, me la parte ne canto so come uscio. Davvero tutti la maggior parte dei medici se sono nell'estero, perché la paga è il doppio di quello che stanno andando qua. Qua sono sfruttati troppe ore e meno soldi. E se sono tutti fuggenti. Infatti è così, cata, per quello che non hanno disponibilità. A meno che non andi a pagamento da qualcuno che va allo studio privato, ma così no. Non so come, questa è una chirurgia, una visita chirurgica vascolare, ci vuole un chirurgo vascolare per farmi questa visita qui. Dimmi tu. E non c'è nulla a fare. È una vergogna Natalia, cosa vuoi dire? Io non ne posso più la vita, aspetta. Io se tu va bene mi lasceranno, non so quando, se è la prossima estate, me ne sto partendo per sempre a Tenerife in Spagna. Fisso, anche in Nagio del Mare è bene in Italia. Tanto in Italia si rimangono le macchine di là. E infatti non funziona niente, niente però. Cata, sì, anche il telefono a Daro Guppo, no. Ma riposo, come ti raggio da, mi ha chiesto nome e cognome, gliel'ho dato, brum, e mi ha sganciato. Dimmi tu. A che punto se mi arrivendi, che ti dà anche il telefono in faccia, chi? E poi ce n'è più un altro, addirittura di trovato da capo. E stesso pure a me, la giovane ha fatto un sito che il cupo di Cagliari, chi mi risponde in Cagliari, ci sto gratendi. Basta licenziarli e mandare persone che hanno bisogno di lavorare. Sì, guarda, no, è un macello. Adesso ogni giorno mi tocca telefonare perché se non riesco a farmela la visita, bisogna rifarmi l'impegnativa alla dottoressa, perché dice che dura 10 giorni. Perché c'è la priorità, mi la devi va subito. Addirittura adesso non possono scrivere neanche urgente, perché l'urgenza va solo dal pronto soccorso. Dimmi tu, anni già mi ha dovuto. E me pronto soccorso te la fanno già vista. Sto andando a farmi al pronto soccorso e poi ci vuole un chirurgo vascolare per farmela. Se no non fa nulla, perché i chirurghi normali me la mi hanno già visitate, ma hanno detto che loro non possono fare nulla. Che bisogna mi visiti un chirurgo vascolare. Ho già fatto anche l'attacco per il sangue. Dimmi tu. Mentre tuo casino è andato di chiudere. Io la faccio in terra ai clienti. È una vergogna, ecco perché me ne voglio scappare dall'Italia. Si pagano meno tasse, hai più servizi e tutto quanto. I roghi, a fare un taccagno, a fare ingrassare chi clicca le mucche. Poi il bello che dico alla televisione, non ci sono più nascite. E infatti sto per scrivere su Facebook, cari ministri, voi siete veramente ignoranti, non ci sono più nascite, perché se gli operai prendevano i soldi che prendete voi, vedrai che i figliori, ognuno i basiarizzi, non neanche uno che non ne stanno facendo, c'è la diminuzione per quelli che sono poveri, poco stipendio, poca pensione, cosa vuoi di più? E tutti gli umbedi di là, là lì gli operai, tutti i figli dello stipendio dell'operai, vedrai come i figli escono fuori. Sì, infatti. Cosa vuoi? Quella gente è sottopagata. Sono in Germania, abbigliano 4 volte, tanto di quanto abbigliamo noi. Purtroppo ci possiamo fare niente. È così. E fanno bene che scappano. Quando li offrono di più. Ui. E che ci vuoi fare? Vabbè. È pazienza. Altro nessuno vecchio, cari, tutti fantasmi. Tutti morti sono, Tony, tutti morti. Se gliel'ho detto che è un canale di morti, che è Pittina. Chi non vedeva mai nessuno era così. C'è uno sempre pone la mortante, e lui chiami e non ti rispondi. Pare che ci sia bisogno per il sedere, ma dimmi tu. Ah, io ho acceso un seggio, sono entrato poco fa, sono entrato, ero fuori. Esce di caffè, ho provato, non era nessuno, poi ho detto, lascio un po' acceso, ho fischiato un po', ho detto, non sa mai perché già ne dici. E io ho acceso, sono per voi nell'ascolto, 10, non è entrato nessuno, poi aspetto. Non è vero, perché se tu provi a chiamare, come Dio comanda, qualche cosa ti risponde. Ma se tu entri a 7 giù, le bue, spazzoleggi, non vedi nessuno e chiudi, buonanotte. Anch'io prima facevo così, però mi sono fermato su 10. Infatti, io un macello, Tony. È un macello, cosa vuoi ti dica? Purtroppo è così, io ero arrabbiata che mi si era bruciato il 3009. Ma cosa? Se non vengo nessuno, non compro più nulla, e mi. Anzi, le poche cose che mi sono rimaste mi sa che me le vende e me le faccio in soldi. No, io mi tengo solo, guarda, un piccolo baracchino, là sono prestato a coso, a Roberto Barone Rosso, che è molto vicino a me, ha messo l'antenna, ma non esce nulla questa antenna, infatti se si monta l'antenna sua, e la piazzemmo qualche giorno per la giornata, o male per la giornata, se ci vuole lavoro smontata, la smonta, mi do la mano. Era mi dato il cavolo, l'elettatore, un baracchino, però non esci, cazzo, Sant'Enna, per carità, la ringo. Ascolta tutti quanti, quando vai ad attaccare il PL, avvitarlo, non senti più nessuno, solo Polo Caldo accetta. È un'antenna cortocircuitata, ho letto, però non fa nulla. No, di lì l'impazzita, la ringo è sempre stata difettosa. Sì. Di comprarsi un altro tipo di antenna, perché non la ringo non si fa nulla. gliela avevo comprata io, quella Rico a Savirio, 50 euro a brutta, glielo dati. E l'ho posteggiata più di un anno dentro qua alla parte e adesso l'ho approfittata dalla Roberto e piazzata in picca, ci avevi già avuto poco comprata, è meraviglioso. Sì, è difettosa e ho provato a aggiustarne una, l'ho aggiustata, è durata un po' di tempo, però da voi se tu l'hai hai fasciato. Corto, vai a ma. Anzi, Alice Bomboni mi ha detto no, è il coso della carica, se ne scende giù la devi tirare su, ma se no viene a carica così vedo, fammelo vedere. Sì, che c'ha la carica come la Mantova. Non neanche, tutta l'alluminio e marcami. C'ha una spirale tipo la Mantova 1, più piccolina, e boh, è attaccato il volo caldo e chibi, con un morsetto. Ma cosa vuoi ti dica? Allora l'hanno messa quell'antenna, perché deve avere la carica come la Mantova. No, no, non ce l'ha, Natalia. Insomma, mi ha colto la fottitura Savirio, dai. Cosa vuoi ti dire? Dai il premio, mamma, sembra. Vabbè, Tony, io sto mangiando. Ci sentiamo alle prossime, dai, che mi devo pigliare la bastiglia. Vabbè, dai, non c'è problema. Vado per l'ascolto, poi spiego come guarda la televisione. Ok, ciao Natali, saluta mia coccetta, saluto anche a lei, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao ciao, ricambiato Tony, alle prossime. Ok, ciao.